un nuovo partito che si ispira a Berlusconi, alla sua personalità e che sarà fatta dalla sua Berlusconi Generation, che è quella che è cresciuta secondo alcune lezioni che sono lezioni innanzitutto di vita e non di partito. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Un solo cuore, un'unica idea. Per un'Italia ancora tu, ancora mia. Per padri e figli. È la notizia più bella del giorno, la notizia che mi tocca al cuore, una notizia fondamentale, fondamentale soprattutto per noi, caro Parenzo. Lui rimane, resta candidato. Lo so. Adesso non essere così abbattuto, ho detto che è la notizia più bella del mondo. Avremo per altri 5 anni, per altri no, 5 anni, Mimmo Scilipoti in Parlamento, signori miei. È una cosa lasciate stupenda, perdere la storia delle liste del PDL, Cosentino che forse le sottrae perché non è stato candidato, e i candidati, del PDL che stanno correndo in albergo per rifirmare, sono tutti melodrammi di questa grande storia che è il disfacimento di un partito. Però la vera notizia è questa: Mimmo Scilipoti ce l'ha fatta. E noi faremo campagna elettorale per lui. Beh, adesso questo stiamo calmi. Andare fino in fondo. Stiamo calmi. Vorrei ricordare fango fino in fondo. Vorrei ricordare alcune piccole perle, piccolissime perle. La porta nave sicuramente è contro natura. Due uomini che stanno assieme hanno dei rapporti anali, sicuramente a mio giudizio è un rapporto non normale. Se non ci fosse stato questo movimento di responsabilità nazionale, il primo tu Parenzo, che non capisci niente di economia e di finanza, saresti stato tu e la tua famiglia in mezzo alla strada. Beh, adesso invece no. grazie a questo movimento di responsabilità nazionale, il 14 dicembre Scilipoti ha fatto quello che oggi, ieri e domani dice, ha detto no, e dirà no. Il Presidente no, della Repubblica. Stai zitto. Beh, a proposito di grandi contraddizioni, mentre abbiamo già collegato un personaggio che non è stato candidato da Berlusconi e un po' per ripicca vuole vendicarsi in Lombardia, fra poco parleremo con lui, però l'ex governatore della Sicilia, Lombardo, aveva detto: al termine del mandato mi metterò a fare il contadino, potrei addirittura coltivare marijuana, disse una volta. Non mi candiderò più a nulla. Io voglio farvi risentire, voi che siete in macchina. Voi che siete in macchina e rischiate di andare a sbattere. Rischiate di sfracellarvi. Sentite, vi prego, Lombardo. Non mi candiderò più a nulla. Era luglio. Quindi mi dedicherò moltissimo all'agricoltura. Non sarà l'unica cosa che farò, questo è sicuro. Farò anche altre cose. Ma non farò politica e non mi candiderò a nulla. Ormai la fase della politica che dura. Lombardo oggi. Sia un mio mondo che deve recuperare spazio e terreno, che chiaramente l'ha posto in palio, mi hanno, tra virgolette, costretto a scendere in campo. In condizioni normali non l'avrei mai. Mi hanno costretto a scendere in campo. La faccia di bronzo ci hanno. Bronzo, che espressione vecchia che usi. Vittorio Sgarbi è con noi, buonasera. Eccolo. Allora, ancora. Ancora. Vittorio, io voglio diciamola tutta, No, perché la teoria di Parenzo è questa: siccome Berlusconi non ti ha candidato. Aspetta, no, ma stai calmo, fammi dire a me. Siccome Berlusconi alla fine non ti ha candidato, allora tu per ripicca, ma è giusto politicamente, è correttissimo, adesso vuoi mettergliela in quel posto al Senato in Lombardia con questa lista, prima il Nord, che è esattamente la fotocopia dello slogan della Lega anche dal punto di vista simbolico, certo. Tutto ideato da Diego Volpe Pasini. Allora, è vero che vuoi vendicarti nei confronti di Berlusconi, no, sì o no? No, perché devo vendicare? non mi devo vendicare di nulla, non, è come sempre la vostra cattiva informazione, come quando tu hai osato mentire al povero Papa dicendo che io ti avevo detto, io sono Vittorio Sgarbi, voi siete due assistenti e voi Pepasini che ti ha detto questo e quello, sì. Non sono io. Quindi tu adesso devi scusarti con me per perché? Aver detto a Papa perché? Che io ti ho detto che stava là sotto. Te l'ha detto Volpe Pasini, io non ti ho mai parlato. Ma stava là sotto, l'hanno visto? Sono un falsario e un povero cretino. Vabbè, adesso io Vittorio, no. Precisiamo, lasciamo perdere l'argomento Papa. Lasciamo povero cretino. Va bene, Vittorio. Oh, non dai. Non c'entro niente. Va bene, d'accordo. Non c'entro niente. Ma lo so che non c'entri, ma lo so che non c'entri. Allora, sei un cretino. Parla, hai sbagliato il telefono. Io non sono candidato. No, pensavo con Papa. Scusa, no. Hai presentato questa lista prima in Nord? No, non l'ho presentata. Non hai presentato? No. Non l'ho presentato. Pasini, che siccome io sono persona indulgente come con voi. Ma scusa, hai parlato stamattina di prima in Nord dappertutto? Presento questa lista prima in Nord? No, non presento. Vabbè, presenti, sei animatore di questa lista. Come dire? Non sono, no, è Volpe Pasini, voi siete sempre imprecisi. Va bene, d'accordo. Precisa tu che sei un dio. Guarda anche quel demente di Parenzo. Stai tranquillo. Sì. Non potete neanche immaginare. Vabbè, allora precisa tu. Non niente perché lo vedrete. Ma cosa vedrete? Vedrete quello che capiterà nei prossimi 5 anni e quale presenza di Sgarbi determinante dove? E violenta ci sarà anche per voi e a vostro vantaggio. Quindi violenta? Violenta che vuol dire, Vittorio? Ho rifiutato la candidatura all'ottavo posto in campagna del PDL che mi è stata proposta, se la mettono nel culo. Ho rifiutato la candidatura di Micichè, numero 1 del Senato Lombardia, se la capirai. Ho rifiutato 8 candidature del movimento che io ho appoggiato, che si chiama Intesa Popolare. Ma perché? E ho rifiutato anche la perché candidatura. Perché hai rifiutato la Campania, scusa? Ho rifiutato quale Campania? La che hai detto, la Campania col PDL, che cosa hai detto prima? Perché non volevo stare all'ottavo posto, io vado al primo. Ah, ecco, perché non eri sicuro là. Posto, ci vuole dignità, io o vado al primo posto o non vado. Ah, ecco, ma non è che hai rifiutato. Chiaro? Allora, se voi non capite questo... Ma ho capito, ma io l'ho capito bene. No, beh, dai, Vittorio, stai calmo. Voglio parlare di politica. Ma lascialo perdere, lascialo... Guarda che ti abbasso, Lasciala perdere. Va bene, d'accordo. Siamo morti. Sì, ma chi l'ha preso in giro? Ma chi dici? Che dici? Chi l'ha preso in giro? Vabbè, noi possiamo prendere in giro. Tu prendi in giro chi vuoi, noi non possiamo... Vabbè. Io non ci ho mai parlato. Va bene, d'accordo, va bene. Non mi hai mai parlato, d'accordo. Accertiamo questo. Non mi hai mai va bene, d'accordo. Va bene. State attenti, io non ho accettato alcuna candidatura, neanche delle cose che io stesso ho originato, neanche candidature di PDL. È vero che vuoi fare perdere al Senato il PDL e la Lega? No, Volpe Pasini, anche lì scoprirete cose che non sapete. Volpe Pasini aveva creato, se volete saperla tecnicamente. Spiegacela un po'. Vuoi farmi parlare o no, imbecille? Vai, spiega. Allora, se ne frega. Ha creato questa lista per Berlusconi quando ancora sembrava che la Lega non volesse fare l'alleanza. Sì. Poi, quando l'alleanza è stata fatta, si chiama Fava, che è il numero 2 o 3 di Maroni, mio vecchio amico. Ma cos'è questa lista che dice che hai fatto tu? Dico, io non l'ho fatto, io l'ho vista, l'ha fatta Volpe Pasini. Ah, ecco. Però credo che non la userà. Invece questo l'ha presentata. L'ha messa in evidenza e l'ha vinta anche in Cassazione. Quindi tu non ti candidi, per fortuna. Non mi candidi, no, peggio, vedrai cosa capiterà. Stai tranquillo. Farò più perché non ce n'è bisogno, capito? Non c'è bisogno di te, che sei un uomo ignorante. No, questo... Va bene, Vittorio, aspetta. E quando sei venuto a casa mia, abbassiamo. Hai visto quello che io ho fatto. Traffico, mettiamo il traffico, dai. Mettiamo il traffico. Che c'entra adesso questo? Perché bisogna... Io volevo capire se questa lista prima in Nord, che copia lo slogan della Lega e che è un simbolo identico a quello della Lega, è stato, al di là del fatto che è stato creato da Volpe Pasini, da Sgarbi per primo, e sono cose tecniche anche importanti, Vittorio, però volevo capire una cosa. Se effettivamente questa cosa qui, che ha comunque la tua presenza, se non in lista, ne parli continuamente, cioè, se questa cosa qui ha come obiettivo la sconfitta del PDL della Lega in Lombardia, sì o no, Vittorio? No, questo è quello che voleva lui. Io non voglio la sconfitta di nessuno, tantomeno la sconfitta della Lombardia o di Benissimo. O precedentemente detto che era una buona idea. Esatto. Di uno che aveva avuto una serie di umiliazioni con Pasini, benissimo, avendo cercato di fare cose utili. Benissimo, quando ho capito. L'ha conservata con mio stupore. Sì. Me l'aveva fatto. Io ho detto a Fava, guarda che secondo me non la presenta. Invece l'ha presentata. Invece l'ha presentata. E tu adesso che fai? Ti distacchi? Ti stacchi da questa lista o la sponsorizzi? Io l'ho semplicemente vista e detto che era una buona idea come te. Quando mi ha chiesto di candidarmi, ho detto non mi candido. Benissimo. E sto dicendoti che non mi sono candidato. Però rischia di essere una copia della Lega, cioè molti potrebbero votare questa lista o no? Questo non lo so, questo la presunzione di Volpe Pasini è che siccome l'hanno usato come slogan... No, mi stai dicendo che tu non c'entri niente, non sarai candidato... Non c'entro niente, che poi dica come voi che è una buona idea, che può essere utile per mortificare candidature di Nicole, la presenza di Minzolini, di Barnabò Bocca e le altre cose che si sono viste... Le zanzare di casa di me quando il giorno. Eccoci qui, 800 24 00 24. Stanno succedendo delle cose incredibili con queste liste del PDL in Campania. Non si sa se sono state portate via da Cosentino, ce l'ha in mano Nitto Palma, i candidati sono riuniti in Campania. Ma è una farsa, caro Vittorio, questa lo ammetti che è una farsa o no? Farsa, più che farsa. È una cosa, quando sento il nano malefico dire non si sente bisogno, mi chiedo, ma quale bisogno si sente di Bondi, della sua fidanzata? Bravo, bravo, bravo. Il problema è che se questi pensano di fare delle liste senza tener conto delle capacità delle persone, le facciano. Alla fine hanno confermato, a parte questi, a parte i quattro, hanno confermato tutti i colonnelli o no? Hanno confermato tutti. Lo so, ma non sono interessato a queste questioni. Dico, l'unica cosa che ho sentito parlando con Verdini e Berlusconi è una cosa che non poteva essere accettabile. Cioè? Se poi, come vedi, oggi pensano di mettere Minzolini o altri capilista, uno si chiede perché uno dovrebbe accettare di essere tenuto come uno che ha bisogno di qualcosa. Io non ho bisogno di niente e quello che farò lo vedrete con vostro straordinario stupore quando ci sarà. Sì. State tranquilli e sereni. Ci sarà. No, ma noi siamo tranquilli e serenissimi. Io non sono affatto agitato di nulla. Ho pensato di essere utile per impedire... Ma è Alfano che non ti ha voluto, è Alfano che non ti ha voluto, diciamo, come capolista. Alfano, non voglio neanche sapere chi sia Alfano. Lo sai, è il segretario del PDL. Ma non mi interessa, io non sono mai stato del PDL, quindi il problema non è mio. Dico semplicemente che ho cercato di portare prima quel poveretto di Samorì che non ha capito nulla. Poi ho portato comunque Intesa Popolare, Miciche all'interno di una... Un po' troppe cose, un po' troppe per cose. Non perdere in maniera troppo... come dire, violenta, perché certo che questo ho fatto io, per cui uno poi valuta. Io ritengo che in ogni caso la posizione di Berlusconi sia di gran lunga più rispettabile di quella di Monti. Vabbè, quello è un altro discorso. Due parassiti e uno incapace. Vabbè, questa è la tua posizione classica. Poi è evidente che quindi non ho nulla in contrario a una vittoria o una possibilità di resistenza del blocco. Comunque, lo vogliamo dire, io con questa lista, prima il Nord, non c'entro nulla. No, non c'entro niente perché l'idea è di Volpe Pasini, però ho detto in tutti i modi che mi sembrava una cosa intelligente, perché significava il tentativo... Ho capito, toglie voti alla Lega, toglie voti alla Lega. L'accrocchio inverosimile di nomi inverosimili messi insieme da PDL. Ma perché Berlusconi non si è liberato di delle sue zacche, di quelle che vengono chiamate zacche? Secondo te, alla fine, perché non si è liberato di quelle che... Ma guarda che c'era quel dano malefico che lì c'era quando un possibile candidato, Quagliariello... Sì. Collegato con me a casa mia, ha detto tra Berlusconi e Monti preferisco Monti. Esatto. Che nano malefico. Berlusconi ha l'amore per questi Volta Gabbana che poi fra sei mesi gli volteranno le spalle di nuovo. Questo è il problema. Non è che ma questo è vero, la cosa è incredibile. Io dico che non è candidato Sgarbi. Aspetta, non è candidato Sgarbi che ha passato. Aspetta, che ha passato molto tempo negli ultimi mesi, nell'ultimo anno con Berlusconi. Aspetta, e invece sono candidati quelli che avevano tradito Berlusconi per Monti, è vero o no? Esattamente, quindi non posso che lodare l'iniziativa di Volpe Pasini, poi non mi riguarda. Vabbè, lascia perdere l'iniziativa di Volpe Pasini adesso, però sto dicendo... No, perché l'ha fatta lui quella lì. Va bene, d'accordo, d'accordo. La lodo, ma non voglio... Non è che siccome la lodo... Ho capito. Il comportamento di Berlusconi incoerente, autolesionistico e forse legato al fatto che considera tutti, meno me, inferiori a lui. Sì. E quindi se li porta dietro... Perché tanto è soltanto lui candidato, gli altri sono gli portano danno come Cosentino o altri, secondo lui, o il suo amico Dell'Utri. Gli altri sono dei burattini, e io sicuramente burattino non sono. Cioè, devo essere lusingato che lui non me l'abbia chiesto come capolista, che mi abbia fatto parlare dicendo Massi, questo posticino qua, se vuoi, io non voglio posticini. Che ti aveva proposto numero 8 in Campania, numero 8. Ma questo 8 in Campania. No, 8 in Campania al Senato, che si può solo se vince la Campania saresti passato. Appunto, appunto. Quindi voglio dire, se devono prendere per il culo qualcuno, hanno sbagliato personaggio. Da cui, benché Bonfepardini abbia sbagliato qualcosa in qualche occasione, questa iniziativa sua, che mi ha fatto vedere e che era stata fatta inizialmente per Berlusconi, quando la Lega non voleva allearsi, mi è sembrata intelligente e provocatoria. Fine. Ma che ruolo ha avuto Alfano, per esempio, nella defenestrazione di Cosentino? Determinante, ma io posso dirti anche questo: io l'ultima volta che ho parlato con Berlusconi, dopo averlo visto quando mi hanno proposto questa cosa, è stato 8 giorni fa. Sì. Dopodiché, tu sei cominciato il gran casino di Cosentino, ma 20 giorni fa, a pranzo da lui, mi ha detto: io non candiderò Bellutri, Cosentino, Milanese, Papa e Scajola. Quindi io lo sapevo da 20 giorni. Come sapevo da 2 anni che lui stava con la papale, come si chiama, la Pascale. Quindi la Pascale, quello che a voi sembra novità, io lo so da molto più tempo. Ma siccome non mi occupo di diffondere notizie... Ho capito, ma perché non ti hanno messo capolista con tutti questi legami? Non lo so. Ho capito, non lo sai. Non è che posso... Non mi hanno messo capolista perché evidentemente sono uno... Quando risposi a Berlusconi che diceva io, cari colleghi, ho un complesso di superiorità, sono superiore senza complessi, questa risposta evidentemente fa capire qual è il nostro rapporto. Cioè, non sono disponibile a fare il cameriere di nessuno. Va bene, grazie Vittorio, a presto, ciao. Che cazzo vuole questa zanzara molesta di merda, lui e quell'altro stronzo che gli sta a fianco? Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Il governo Monti ha agito con maggiore potere del governo fascista, perché ha avuto la possibilità di fare anche su cose ordinatorie. Il governo fascista. Rifiuti di pensare a un'avventura. Su Cosentino si era capito tutto sin da ieri, eh. Ho chiesto a lui un atto di generosità. E pensi il gioco è fatto. Cosentino? E noi abbiamo chiesto anche a Cosentino di fare lo stesso atto di generosità, anche se nel fare queste richieste ci sentiamo male, perché sono richieste che facciamo a persone che stimiamo, che sono ingiustamente perseguitate dai giudici. Oh, la storia della persecuzione. Allora, in realtà, applicata fino in fondo, non si capisce perché queste persone dovrebbero essere escluse. Perché se sono tutti perseguitati, non vale il discorso della giustizia, condannati in primo grado, cioè non vale nulla. Cioè, è perseguitato Cosentino, è perseguitato Dell'Utri, è perseguitato Berlusconi. Va benissimo, può anche darsi che sia così, non lo escludo. Allora, perché questa esclusione? Perché i sondaggi dicono... Questo raccontano nei corridoi. I sondaggi dicono che Berlusconi recupera qualche punto, qualche margine, se esclude Dell'Utri, Cosentino, Papa, eccetera, eccetera. Scajola, eccetera. Sentiamo gli aggiornamenti da Bianca Berlinguer, TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Scontro finale sulle candidature del PDL, Cosentino alla fine viene escluso e scappa con le liste, il partito smentisce, tutto regolare le abbiamo noi. Vendola a destra puzza di camorra, Monti in campo non per vincere ma per condizionare, il professore replica le critiche del Financial Times. Respinta dal Tribunale di Milano la richiesta della difesa di Berlusconi di sospendere il processo Rubi, ma la sentenza arriverà dopo il voto. Sondaggio IPR, piccole variazioni nell'ultima settimana, cresce Grillo, nelle regioni chiave al Senato sostanziale parità, Tremonti ospite del TG3. Grilli, in Italia la crescita è debole ma non serve una manovra correttiva, fuori dalla recessione in primavera, fatte riforme irreversibili. Se toglieranno il blocco pagheremo gli stipendi e bonificheremo l'area, così l'Ilva in attesa che il GIP decida sul dissequestro delle merci. Il secondo giuramento di Obama davanti ad una folla immensa, il presidente chiede ai repubblicani unità nazionale e spera nella ripresa economica. Tuo fa l'americano, americano, americano. Noi tutti, voi tutti, ricordate una mitica impresa di David Parenzo, alias meglio il contrario, Umberto Bossi alle prese con Nicola Cosentino. Era circa un anno e mezzo fa, Cosentino rischiava l'arresto alla Camera, c'era un ordine di arresto, fu salvato grazie ai voti di una parte della Lega, quella bossiana. Ci inventammo questa cosa. Pronto? Onorevole Cosentino? Sì? Buonasera alla segreteria dell'onorevole Bossi, posso passarglielo? L'onorevole vuole parlarle. Sì. Grazie. Pronto, Nicola? Nicola, pronto, ciao, come stai? Buonasera, bene, bene. E volevo salutarti, volevo dirti che questa telefonata deve rimanere tra noi, perché sì, sono contento alla fine di come è andato il voto. Adesso c'ho il problema con Maroni, con Bob. Io non finirò mai di ringraziarti, non finirò mai di ringraziarti, perché sei stato decisivo per evitare una zozzeria, insomma, che stavano ulteriormente portando su di me, ma in particolare sulla PDL Campania. Ti sono grato per la vita, questo lo devi sapere. E la vita. Io adesso abbiamo il problema con Maroni, che anche lì da quel fazio lì vuole rompere tutto. Meno male che non hai ringraziato la Lega. No, e lo faccio perché era inopportuno farlo per dare adito. Io ho ringraziato il Parlamento senza ringraziare nessuno, in particolare pubblicamente, ma io ho detto anche al Presidente Berlusconi, insomma, che insomma, sono contentissimo e ti ringrazio per la vita. Tutto il resto. Beh, come dimenticare, caro Parenzo, questi momenti eccezionali. Siamo già, mi viene quasi da piangere, è come se non dovessimo... No, anche per me è emozionante, adesso non vorrei magari che i magistrati, sentendo questa telefonata, mi recapitassero un avviso di garanzia per concorso esterno in telefonata, quindi non so se c'è, abbiamo fatto un no, reato. No, è come quando uno sai, ha i titoli finali, i titoli di coda, no? E manda le cose del passato. Beh, ma è stupendo. Ma come, fatto, se non dovessimo, fatto... come se non dovessimo più andare in onda, ma ovviamente non è così. Ma poi anche sentire la voce di questo Cosentino, che un po' mi dispiace che sia scappato, mi è scappato veramente con queste liste. A me hanno proviamo a chiamare l'hotel interessato. Intanto sentiamo Maurizio da Ravenna. Hanno visto il busto sì, di Almirante scappare con le liste, hanno visto. Beh, addirittura il busto di Almirante che cammina, scusa. Sì, c'è il busto di Almirante che cammina con le liste del PDL e tutto il PDL dietro, come un cartone animato. Ma non faccio il cretino. Maurizio no, da Ravenna. Ma è vero, il busto con le gambe che corre per tutta Napoli, sì, e dietro di corsa con Verdini, Cicchi, tutti che corrono dietro. Alessandro, buonasera, Michele. Sì, Hotel Terminus? Sì. Sì, buonasera, cercavo l'onorevole La Boccetta. Non ho capito, chiedo scusa. Stavo cercando l'onorevole La Boccetta. Guardi, le hanno passato l'interno sbagliato, qui il ristorante. Ah, il ristorante dell'Hotel Terminus, il ristorante. Sì. Il centralino qual è, mi scusi? Il centralino deve, allora, praticamente fa 081 sì? 7793 553. 553, ma quelli, il centralino. Sì, quelli del PDL dove stanno in questo momento? Sono nella sala Camino. Sala Camino, sala sì, Camino. Va bene? La ringrazio, molto prego, gentile, prego. Grazie. Buonasera. Ho detto gioia, ma noia, noia. Hai capito? Dalle cucine dell'Hotel Terminus a Napoli. Ma meraviglia. Ci raccontano che quelli del PDL sono riuniti per la storia delle firme, sai, che pare appunto che non si trovino più queste carte con le firme in calce, cose tutte italiane, tutto avviene con la carta, bisogna presentare i documenti di carta, basta con queste cose, basta. No, ma la cosa meravigliosa è che sono lì riuniti perché hanno richiamato tutti per far rifare le firme da capo. E cioè, ma tu ti rendi conto ancora con la carta? Basta, basta, basta. Pensi il gioco è fatto. Sì. Ma che? Ah, sì. Speriamo che risponda qualcuno. Hotel Terminus di Napoli. Stanno cercando di mettere di nuovo le firme sulle candidature dopo il casino creato da Cosentino. Tra parentesi sembra, Hotel Terminus. Sono nella sala a Camino. Così ci riferiscono dal ristorante. Meno male che queste riunioni... Beh, ma perché non rispondono al centralino dell'hotel Terminus? Io divento pazzo. Vabbè, abbiamo capito, hotel 4 stelle, l'abbiamo capito. Vabbè, sì, nel centro di Manhattan. Beh, però si trattano bene questi qui, Star Hotels, vabbè, facciamo pubblicità in diretta. Star Hotels, vabbè, toglietemi questa roba. Fabio da Vicenza, buonasera. Buonasera. Dica. Saluti a Cruciani e sì. A Parenzo. Va bene, poi? Niente, volevo ciao, dire ciao. Questo, che secondo me la sensazione che ho è che la Lega giochi, non dico che gioca per perdere, però le andrebbe bene non vincere per Berlusconi. Ma chi? La Lega. Ma la Lega sa che tanto non vincono, per cui... ma penso anche che a loro vada bene, perché altrimenti si troverebbero veramente male a sostenere un altro governo Berlusconi. Ma starebbero benissimo, guardi, chiunque, va al, no, governo, per... chiunque va al governo sta benissimo, non credo che si tirerebbe indietro la Lega, se mai dovessero vincere, cosa molto... Beh, certamente, sempre meglio vincere, però molto in questa situazione vincere per la va bene, allora? Adesso. Allora? Questo è un punto, l'altro, sì, discorso, l'altro punto? L'altra volta faceva la scommessa, no? Si ricorda che faceva le scommesse. Sì. Io vorrei scommettere con lei il capo del governo e il ministro dell'economia. Vabbè, scommetta pure. Ok, avanti. Io dico che va su Bersani con Monti. Sì. Scommessa un po' facile, ma se la accetta la facciamo. Sì, va bene. Allora, Bersani premier e Monti? E Monti ministro dell'economia. Vabbè, ma è facile questa roba qui. Nicola da Padova, non scommetto, troppo facile. Nicola da Padova. Sarà Cosentino che è andato a Padova. Nicola, buonasera. Dica. Sì. Buonasera. Io chiamavo invece per la sua scommessa sulla candidatura di Dell'Utri, sì. Che appunto se non si candidava pagava il primo ascoltatore 100 euro. Sì, esatto. Ma la candidatura alle 20 scade, la presentazione delle candidature. Ah, alle 20. Amico mio, ha chiamato presto. Perché ho letto ieri sui giornali, era questa l'ultima notizia. Sì, e poi non è che arrivano, ci sono le mail, le telefonate. Niente, ho sbagliato. Alle 20.01, quando sarà ufficiale la non candidatura dell'Utri, i primi due che chiamano pago. Antonio da Catanzaro. I primi cinque. Antonio da Catanzaro, se sarà buonasera. Ufficiale la rinuncia dell'Utri, Io ho chiamato solamente perché non si riesce a dire nulla di intelligente, io ho chiamato solamente per cantare. Sì. Per cantare. Alleanza di centro per l'Italia. Beh, questo è Pionati. Le è piaciuto, ma sai che si è alleato con Storace, mi hanno detto, forse ho sentito male, no? No, ma com'è che fa l'inno? Alleanza di centro per l'Italia. Ma non lo sa. Per chi non ha più santi da pregare. Basta! Per chi non ha uno straccio di lavoro. Basta! La cosa più bella sono quelli che chiamano, non lei, che riferiscono alle agenzie, i politici che si autoescludono quando sarebbero stati comunque esclusi. Zanza, zanza, zanzare, dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanza, zanza, zanzare. Ma a proposito di Corona, che non si trova, come sapete, è latitante ufficialmente e rischia di beccarsi altri anni. Beh, abbiamo qui una grandissima novità che potrebbe essere una grande soluzione, una soluzione importante per l'ex re del gossip, chiamiamolo così, per il manager fotografico. Beh, come dire, è pronta per lui la scialuppa radicale di Marco Pannella. Ciao Marco. Abbia. Marco? Sì, sì. Noi radicali, liberali, liberisti, libertari. Sì. Abbiamo detto Corona libero. Ma non è... Sì. Non c'è pace senza Corona. Non c'è pace senza Corona. Nessuno tocchi Corona. Abbiamo cambiato l'associazione di Luca Coscioni in Luca Corona. Sì. Ancora. E vogliamo candidare capolista in Senato e anche alla Camera in tutte le circoscrizioni italiane. Può. Non si può. Fabrizio Corona libero. Ma sequestrato nell'illegalità. Ma quale illegalità? È condannato in via definitiva, Pannella. Sei condannato da questo Stato che non ci permette di raccogliere le firme. Ma che c'entra? Con Adele Faccio, vabbè, con Luca Coscioni, con Mira Welby. Ma che c'entra? Scusi. Con tutti loro. Allora, lei ci sta dicendo che vuole candidare Corona capolista? Corona capolista in tutta Italia per dire libertà subito, diritti, Toni Negri candidato anche lui di nuovo. Ma che c'è? Prospero Gallinari, anche Gallinari. È morto. La Salma vogliamo candidare. la salva. Vabbè, di Gallinari. Grazie Pannella, grazie, grazie. Libertà. Vabbè, ho capito. Vabbè. È impazzito, ma non è una novità. Non capisci un cazzo. Lo sappiamo, sì, abbiamo capito questo qua. Maurizio da Ravenna, buonasera. Mi chiamate questo maledetto albergo dove sono rientrati questi del PDL un attimo? Maurizio da Ravenna. Pronto. Dica. Cruciani, lei è vispo, fa una bella trasmissione e poi invita Sgarbi a sì. dire tutte cazzate. Che ci dice Sgarbi di nuovo? Boh, non so, io sì, questa storia di prima... Buonasera, sono Antonio, cosa facete? Sì, buonasera, stavo cercando la sala, non mi ricordo come, dove... La sala Caminetto, l'onorevole Sì, Lambocetta. Ma non c'è più nessuno, sono andati tutti quanti via. Ah, sono andati via? Sì. Cioè, hanno risolto tutto il problema delle fila? Non lo so, guardi, perché noi affittiamo solo le sale, poi il resto non sappiamo nulla. Quanto costa affittare una sala al Caminetto? Scusa, la sala Caminetto? Voi, per ma questi costa sempre sulle 300-400 euro più IVA, poi secondo del... Ma allora? No, per non so, per una mezza giornata. Poi i prezzi deve chiamare, c'è un ufficio a parte. Un ufficio a parte, comunque una mezza giornata uno se la cava con 300-400 euro, siccome devo organizzare un evento, ha capito? Secondo le persone, se deve organizzare un grosso evento, sì. ci sono anche le casale da 1000 euro. Perché questo c'è un ufficio a parte che un è aperto parte. Domani mattina. Ma sono andati via tutti? Chi c'era? Pure chi sì. c'era? L'onorevole La Boccetta? Sì, ma sono andati tutti quanti via. Tutti via, hanno risolto tutto evidentemente. Ma non lo so, per la verità, se hanno risolto o non hanno risolto, questo non lo so. Si sono arrivati. Perché loro sono chiusi in una sala, noi non sappiamo. Neanche. Sì, sala Caminetto, no? Sala Caminetto. Sala Camino, sì. Vabbè, grazie. Prego, grazie, via. Grazie. Sì, lo so. Possiamo dare una notizia: è stata sciolta la riunione dei deputati candidati del PDL al Senato e alla Camera in Campania, caro Parenza. Sentito, sì. È meraviglioso, però non si capisce come si è risolta, perché questi vabbè, avranno rifirmato di nuovo queste carte che non si trovavano, perché forse Cosentino se le portate via, sai, queste cose assurde italiane che bisogna firmare l'accettazione della candidatura, la candidatura, sai? Cioè, io proverei però adesso, se posso dare questo consiglio, di chiamare Cosentino al 33, annotati un attimo, non dire ufficialmente il numero, 335, no, Antonio da Roma, voglio sentire Antonio da Roma, fra poco abbiamo un grande personaggio, ci vuole 335. Non dare il numero di Cosentino, scusa, cioè, Antonio da Roma. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Dica. Senta, io vorrei solamente chiedere a questi signori politici se pensano che la popolazione italiana sia rincretinita, perché parlano di rinnovamento, ma se andiamo a vedere bene i nomi sono sempre gli stessi. Non c'è alcuna garanzia che queste persone, una volta elette, entrate in Parlamento, peraltro, mantengano il loro schieramento e non cambino casacca. Oltre al gioco assolutamente deplorevole della compilazione delle liste, ad esempio Casini, che tiene molto alla famiglia, infatti si vede, ha messo mezza famiglia nella tua lista. Quindi io prevedo che per queste elezioni il popolo italiano farà sì. vedere a questa classe di inetti senza competenze sì. che siamo lei mette più tutti, intelligenti mette di tutti loro. In mezzo naturalmente, no? Inetti senza no, competenze, tutti in mezzo. Assolutamente, abbiamo allora anche delle lodevolissime persone, certo, ma la stragrande maggioranza delle facce che si vedono in televisione, di coloro che parlano e danno sì. voce ai partiti, purtroppo non sono le persone bene, che dice lei. Grazie. Comunque voglio far notare una cosa. Io non voglio più sentire dai giornalisti che si sono candidati, sono stati paracadutati con la lista bloccata, una critica al Porcellum, perché molti di questi giornalisti che si sono candidati, esatto. non tutti, per esempio non c'è tra questi sicuramente Oscar Giannino, che probabilmente che la cui elezione è molto difficile, non voglio più sentire una parola di critica nei confronti del Porcellum, non esatto. voglio più sentire nulla, perché hanno predicato per anni la lotta dura e senza paura al Porcellum, hanno detto che il Porcellum era la vergogna d'Italia, che non c'era il collegamento tra eletti ed elettori, hanno fatto la morale moltissimi sul Porcellum, è uno schifo, e poi hanno accettato tranquillamente, senza fiatare, la testa di lista, la numero uno, la numero due, cioè candidature sicure alla Camera e al Senato, per cui non voglio più sentire una parola contro il Porcellum da parte di quelli che si sono candidati, almeno anche nel Partito Democratico potevano tranquillamente passare per le primarie, cioè questo non vale solo per i giornalisti, ma vale nei confronti di tutti quelli che hanno sparato a zero contro il Porcellum e adesso per la prima volta si candidano col Porcellum. Basta! Roberto da Milano, buonasera. Buonasera, sono Roberto. Sì. Niente, io trasmissione dell'intervista all'onorevole D'Alema. Dov'è l'intervista ad D'Alema? Scusi, quando? Dove? Ne fa tante. Poco fa sulla... Vabbè, allora cosa ha notato, cosa ha detto? E niente, ha detto che Monti non è un personaggio di rilievo, ha fatto un sacco di guai. E vabbè, la linea, diciamo, del partito, no, a parte che non avrà detto proprio così, comunque ha criticato fortemente Monti. Allora? Allora, lui che cosa ha fatto? Perché lui ha detto che... Ho capito, ma adesso c'è la campagna elettorale, cioè D'Alema ha preso una posizione contro Monti a partire da quell'intervista in cui ha detto che era immorale che scendesse in campo. Lei rimane sorpreso da questa cosa qui, ma insomma mi sembra una cosa assolutamente normale che D'Alema oggi dica delle frasi contro Monti. Che cos'è che l'ha sorpresa? Non ho capito. No, è stata la logica che ha seguito, e cioè lui ha detto che ha governato l'Italia per un po' di anni insieme a personaggi di rilievo, sì, tipo Ciampi, ma non è che perché uno stringe la mano a un personaggio di rilievo diventa di rilievo. Cioè l'onorevole D'Alema sicuramente è una persona intelligente, ma cosa vuol dire? Cioè, per avere un personaggio politico tra virgolette vecchio che ragiona ancora in questa maniera e si presenta ancora in questa maniera, vuol dire che non ha capito assolutamente nulla di quello che è la politica. Va bene, grazie. Danzano come zanzare queste ombre sulla strada. Oh, è candidato anche Razzi, te lo ricordi? Il mitico Razzi, quello del mutuo che poi non si capisce bene se questo mutuo sia stato pagato. Quello che voleva fortissimamente la ricandidatura anche per motivi economici. Più volte l'ha detto apertamente che gli facevano comodo i soldi dello stipendio da parlamentare. Candidatura in Abruzzo, che è la sua terra, peraltro, mentre Scilipoti è candidato in Calabria. Paracadutato in Calabria, amico mio. Ma hai capito? Cioè, adesso noi possiamo essere felici perché la nostra trasmissione continuerà a avere strepitosi pagliacci gratis al servizio della zanzara. Ma dopodiché possiamo dire una cosa chiara. Cioè, questi due signori, se si fossero dimessi una volta cambiata casacca, oggi sarebbero più credibili. Però scusa, però sì, però lascia perdere adesso questo argomento banale, questo qua, scusa, no, se te lo dico, è un argomento banale perché ormai è superato. La cosa che ti dico è un'altra. Però c'è una coerenza di fondo, cioè sia Scilipoti che Razzi, come altri, hanno aiutato Berlusconi il famoso 14 dicembre. Ma io non metto in dubbio. E allora a questo punto è normale la ricandidatura? Di cosa ci stupiamo? Cioè, in alcuni casi Berlusconi ha aiutato quelli che 14 dicembre l'hanno salvato. C'è poco da fare. Ma è con noi uno di quelli che invece Berlusconi ha deciso di non ricandidare. È con noi, lo saluto, il senatore Marcello Dell'Utri. Buonasera. Eccoci, buonasera. Non mi posso presentare perché sono impresentabile, ma lei mi accetta lo stesso? Beh, dicono che sia impresentabile. Lei si sente impresentabile? Io l'accetto, ma... Ah, lei accetta, va bene. No, io non mi sento impresentabile. E Berlusconi però ritiene che lei è un po' impresentabile. No, ma Berlusconi ha fatto un focus su tutti quelli che hanno problemi giudiziari e gli hanno detto che se ci sono questi candidati rischia di perdere 1,5 milioni di votanti. Ma lei ci crede? No, però io non ci credo, però se ci crede Berlusconi io non posso fare a un mio amico uno sgarbo, perché poi domani se non vince dice hai visto, è stata causa tua. Io così mi sono tolto dalle palle e gli ho detto bene, io non mi candido, così non si potrà dire mai che hai perso per causa però, scusi Dell'Utri, però è anche vero che non l'avrebbe candidata lo stesso. Lei ha anticipato un po' furbescamente quello che Berlusconi avrebbe deciso. Questo lo pensa lei e forse tanti altri, ma non è così. No, ma io non è che lo penso. Ma è giusto pensarlo, lo penserei anch'io se non fossi io, non so se mi chiedo. 1,5 milioni di voti, ma secondo me non è vero. Lei non fa perdere al PDL 1,5 milioni di voti, senatore Dell'Utri. Io modestamente pensavo di farli riconquistarli 1,5 milioni di voti, perché 1,5 milioni di delinquenti che mi avrebbero votato ci sono. Scusi un attimo, tra lei... La vorrei dire una cosa, no, la cosa che mi entusiasma è di Dell'Utri, entusiasma forse è una parola grossa, è questa, che alla fine... Siccome molti si strappano i capelli, corrono da Berlusconi Berlusconi e stanno ore e ore all'addiaccio per cercare di essere ricevuti e si mascherano, non sono stato ricaduto, chissà cosa succede. Deludi, ma lui se ne fotte. Rischia di finire in carcere, in galera, cioè, questo è il punto. Tutti rischiamo, anche lei a piede libero, siamo tutti a piede libero in questo paese così combinato. Beh, sono esagerato, io forse, ma io vorrei dire questo, rischio un po' meno lei, perché qualche foto di Staforo non l'ha fatta oggi, domani, no, qualche porcheria l'ho fatta, non c'è dubbio. Tutti siamo messi in... Beh, io rischio un po' meno di lei, senatore. Questo senz'altro, io ho più processi quantomeno. Scusi un attimo, ma ecco, appunto, parliamo un attimo. Dimmi, Lorenzo. Siccome mi sono veramente a lutto perché non sarà più in Parlamento, da non dire così. Marcello, Parenzo, cosa gliene frega? No, non gliene frega niente. Parenzo è contento, non e lo dice mai. Contento. Una proposta. Qual visto è la proposta? Che da oggi è ufficialmente un disoccupato il signor De Luzzi. Ancora no, manca un mesetto ancora. Voglio proporre a mio amico fraterno Marcello di fare una rubrica fissa settimanale alla Zanzara chiamata La Trattativa. Ah, bellissimo, ci sto. Finché sì, beh, mi pare una bella idea. Beh, guardi che... Oppure le do un altro titolo che si chiama Io in Groia. Cioè, anziché in Goia, io in Groia. Tutti e due belli, complimenti. Però Dell'Utri, la nota politica quotidiana. Una volta a settimana 100 euro al mese. Cioè, 100 euro è pochissimo. Ma gliele do io. Sempre picciole sono. Sempre soldi sono, questa è la traduzione. Scusi, però io volevo capire una cosa. Tra lei e Cosentino, quanti voti perde il PDL secondo lei? Perde non essendoci? Non essendoci. No, certo. No, non esageriamo. Passiamo dal serio al faceto, dal faceto al serio. Sì, come no, al solito. Niente, non lo so. Con Cosentino li perde. Con Cosentino... Forse sì, perché Cosentino ha un rapporto col territorio vero, serio, consolidato da anni della sua attività politica. Ma la porcheria, gli hanno fatto una porcheria? Una clientela di gente, e quindi non lo so. Io Cosentino, dico la verità, l'avrei tenuto. Non peraltro, prima di tutto perché le accuse che gli fanno non si sa bene che cosa siano. Mi ha detto che per da 18 mesi non lo chiamano neanche per un'interrogazione. Lui non sa niente. Questa è una cosa inaudita. Secondo, è stato anche salvato dal Parlamento, ma questo si può dire, vabbè, non vale. Terzo, è uno bravo, perché sicuramente è uno bravo. E quarto, non candidandolo significa mandarlo direttamente a Poggio Reale, perché quello è il portone che gli si apre dopo che decade da deputato. I magistrati hanno chiesto due volte l'arresto, infatti. È una cosa assurda. Io questa, francamente... Non lo so, qui non lo so neanche. Tanto è ufficiale, Cesaro ha detto Cosentino ha rinunciato, esclusione dolorosa. Però non c'è una mutazione anche del PDL? Adesso fuori lei, fuori Cosentino, fuori altri che sono magari condannati in primo grado, addirittura. Sembra quasi. Sembra l'Italia dei valori. Scusi. Ma esattamente la mossa è proprio questa. Cercare di dire, visto che si parla di valori, di cosa morale, eccetera, vogliamo più, mi dispiace, tu sei bravo, eccetera, sarai anche ingiustamente accusato, ma siccome sei accusato devi uscire. Dell'Utri, non è più il suo partito. Ma certo, non è più, però è un partito che si presenta pulito. Lo stesso Berlusconi è condannato. Ma che c'entra? Berlusconi è il leader, lui può essere condannato a qualunque cosa, ma lui è fuori dai giochi. Berlusconi, non dimentichiamolo. Non deve essere considerato, anche se è condannato. Non eccetera. Deve essere considerato, che c'è? È il fondatore. Ho capito, ma se uno è condannato, è condannato. È assoluto, No, c'entra. Berlusconi è come Garibaldi, non si deve parlare né male di Garibaldi. Cioè, lei sta dicendo che Berlusconi, qualsiasi condanna, comunque non viene preso in considerazione da questa cosa del partito pulito. No, è un altro discorso. Assolutamente, è un altro discorso. È fuori dalle leggi, non diciamo. Non si può paragonare con Dell'Utri, con Sentito. Ma così io dicevo, siccome lui dice i condannati, Berlusconi stesso dice il partito si deve presentare in un certo modo, poi se c'è uno condannato, uno potrebbe dire, no? E appunto, siccome è così, lui lo può dire, deve essere fuori. Scusi, ma lei ha paura? Ma le viene la tentazione di votare per Giannino anziché per il PDL? No, perché Giannino? Che c'entra Giannino? Perché adesso lui è liberale veramente. Lei lo vota il PDL, mi dica ma subito. Logico, è il mio partito 100.000 volte, a parte che se tutti fanno schifo, il nostro è quello che fa meno schifo. Fa meno schifo degli altri. No, detto, se tutti fanno schifo il nostro è il migliore. Senta, ma ha paura della galera, mi dica la verità, senatore. Paura della galera, che vuol dire? Paura di entrare in carcere. A Lucciardone, magari a Lucciardone. Non lo so, perché non ci penso neppure. Non c'è. La paura c'è quando non hai il coraggio. Io mi ritengo uno con coraggio e affronto tutto. Ma secondo lei è possibile? Cioè, quante percentuali dà il suo arresto? Ci ha pensato? Cioè, non... Ma chi me frega? Ora. Mica faccio sti che giochi, ne so. Ha pensato a cosa si porterebbe in carcere, per esempio? Porterei una banana. Perché? Sì, perché mi piacciono le banane. Ma vabbè, quello però la può prendere in carcere direttamente, non è che se no, tutto. Perché poi lì ti fanno i controlli, quindi se mi fanno entrare. L'altra volta quando ci sono andato ho portato la Divina Commedia, ma adesso me la sono letta tutta, basta. Vabbè, ci sarà un'altra cosa che si vuole portare, se va. Beh, adesso stiamo parlando di cose brutte però in realtà. No, ma sì, vabbè, ma insomma, sa, che mi fa queste domande, cosa vuoi dire? So, hanno chiesto 7 anni un'altra volta. Devi fare domande intelligenti, perché sì, adesso, allora le risposte adesso ci sono provo, facili. Ci provo. Alfano, adesso vediamo una cosa. Alfano ha avuto un ruolo decisivo. No, nella ma ha detto di fare domande intelligenti, non di chiedergli Alfano. Scusa. No, però bravo, Parenzo! Bravo. Però scusi, Alfano ha avuto un ruolo decisivo, sì o no, nell'esclusione sua di Cosentino Sua in particolare? Sì, ci ha messo del suo, ha detto... Può darsi. Io non lo so, francamente non lo so. Ci ha vinto Alfano, questa è la realtà, la cosa grave per lei è questa, che ha vinto Alfano. Ma lei non deve stimolare questi... Perché io con Alfano avevo poi trovato, diciamo così, un modo su vivendi. Ma poi Alfano, qui chi comanda è Berlusconi, non è che Alfano decide lui. Se Berlusconi avesse detto no, qui io voglio questo, Alfano cosa vuole che dica? Alfano, per quanto sia il segretario, eccetera, eccetera, non è che decide Alfano. Alla fine non decide Alfano, dice. Ma no, decide Berlusconi. Pare che abbia detto Alfano, se ci sono questi qua io comunque non faccio il capolista, eccetera, eccetera. Comunque, vabbè. No, non ci credo proprio. Non perché, ci crede. No, perché poi tra l'altro non è che c'è solo Alfano, c'è una serie di persone che hanno formato queste... Senta, ma alla fine la trattativa, questa roba di Miccichè è una stronzata, dice, di Grande Sud, che dicevano che lei sarebbe candidato con Grande Sud. Ma io non l'ho mai saputo, quindi non lo so se è vero o non è vero. Io i giornali ormai, sa, ho fatto la mia età, non ci credo più ai giornali. Quindi. Comunque, guardi, la cosa incredibile è che hanno fatto fuori lei mentre hanno candidato quelli che avevano fatto un appoggio ufficiale a Monti, anche pubblico. Si rende conto o no? Cioè, della follia. Cioè, dal suo punto di vista, dice, c'è gente che ha fatto prima che poi cambiassero idea repentinamente, c'è gente che ha ufficialmente appoggiato Monti, appoggiato Monti contro Berlusconi, dicendo che Berlusconi non è più presentabile, e adesso poi sono tornati a Canossa. Sono tornati a Canossa strisciando anche un po', e sono stati ricandidati, e lei fuori. Ma non è, incazzato come una bestia? No, perché a me che me frega, scusi. Lo so. Perché se l'hanno candidati vuol dire che sono andati a spiegare le loro ragioni, e la politica poi ci insegna che non è un'arte in cui si usano le virtù comuni della vita normale. La politica è tutto un casino, cioè quello che lei sta dicendo ora viene smentito fra un minuto. Ah, non c'è dubbio. Quindi la politica ammette tutto. A lei non è fregato mai nulla della politica, a lei non è fregato mai nulla. Io l'ho sempre detto, sì. Non è che me l'è fregato, la politica sarebbe un'arte straordinaria se bene esercitata. Ma perché lei dice che l'immunità adesso non le serve più, mentre le serviva prima? Perché non le serve più? Come non serve più? Lei mi ha detto in un'intervista, sempre la solita Beatrice Borromeo, lei lì c'è gatta cicova in queste interviste continue a Beatrice Borromeo, senatore Dell'Utri. Ma no, Beatrice Borromeo, guardi, è una di sinistra, ovviamente che io non posso stimare per le sue però idee, le piace, però le piace. La stimo perché è una professionista seria. A lei piace tutto riporta sempre perfettamente, senza svicolare di niente, una virgola, quello che dichiara. Secondo me è correttissima. Secondo me Dell'Utri ha una fascinazione per il Fatto Quotidiano e per Santoro, cioè, proprio non c'è dubbio. No, poi la Beatrice Borromeo è una che ha un bellissimo nome, Beatrice, e uno stupendo cognome, Borromeo, quindi già di per sé... Quando la chiama lei proprio si scioglie. Io si sciolgo per forza. Una che si chiama Beatrice e Borromeo, ma dove vai? Pensa quando la chiamiamo noi, che effetto facciamo, Parenzo? No, Cruciani è un gran nome. E Parenzo, diciamo, gli sta dietro. Scusi, ma lei scapperebbe mai come ha fatto Corona? Scapperebbe, dove vai? Che ne so, metti che la stanno per arrestare, andrebbe via come ha fatto Corona, no? Non andrei mai via perché io non sono Corona. Non so se mi spiego. Però lo capisce un po' Corona. Che lo è andato... capisco, io capisco chiunque cerca di non passare la sua vita con pene detentive. Detentive. Dunque un po' lo capisce questo suo scappare 5 anni per estorsione. C'è da comprenderlo, dice lei. C'è da comprenderlo, c'è da comprenderlo. Certo, io penso di sì, però non sono cose che conosco. No, certo. Pubblicità, torniamo subito per la conclusione con Marcello Dell'Utri, che non mi sembra particolarmente abbattuto da questa esclusione, che già era di ieri la notizia, però insomma non mi sembra, anzi, è piuttosto in forma. Sei ancora a casa, Emo? Però il ragionamento fila tutto, caro Parenzo, quello che faceva prima il senatore Dell'Utri, cioè qui si assiste a un cambiamento del PDL, cioè, diciamo la realtà, la verità. Antropologico. Cioè, beh, un cambiamento, a parte il leader, no, dice Dell'Utri, gli altri basta ormai un'accusa, insomma non si sente un po' ormai fuori da questo partito, cioè prima difendevate a spada tratta i condannati perché pensavate che spesso erano condanne ingiuste, adesso senatore Dell'Utri. Ma non è che fuori, io non, vabbè, io sono già fuori, sono, cioè ormai non sono in gioco. Partito finito, diciamo la verità, se ragionate... Ma cambiano le cose, i partiti cambiano come i corpi cambiano, e quindi Berlusconi non è perderà, più quello del 94, sono passati 20 anni, in 20 anni uno diventa da bambino ad adulto. Berlusconi perderà, Berlusconi perderà, no, io spero di no. Beh, insomma, spero di no. Berlusconi ci sta tutta la sconfitta, ci sta tutta anche la vittoria, perché da come stanno andando i sondaggi credo che Berlusconi potrebbe stupire, ecco, non è la prima volta. Lei, ma pur di non vedere Ingroia, pur di non vedere Ingroia in Parlamento, lei cosa farebbe? Oppure no, non me ne frega niente, io se fossi in Parlamento e c'è Ingroia, io lo guardo, perché non devo vederlo. Anzi, no, lo guardo bene negli occhi. Sì, Però non sarebbe strano un Parlamento fuori Dell'Utri dentro Ingroia. In Parlamento e non in carcere. No, sarebbe certo meglio dentro Ingroia e fuori Dell'Utri, però. No, ma scusi, io sono fuori e lui è dentro in questo caso. In questo caso lei è fuori e lui è dentro. Però il Parlamento. Provarle a fare una domanda semiseria. Ora che i cosiddetti impresentabili non ci sono più. A parte che non è vero. Ho detto i cosiddetti, tra l'altro. Non pensa che il PDL possa con più libertà fare le battaglie per il garantismo, per la giustizia giusta? Cioè, visto che non ci sono più grandi conflitti di interesse. È una domanda intelligente. Beh, bravo, io me l'aspettavo. Sì, sono convinto che ha ragione. Potrebbe farlo effettivamente alla grande queste parole. Beh, ma ci sono ancora tanti condannati. Con più credibilità. Però il problema è che mentre fa questa battaglia magari esce qualche caso che ti smentisce. Esatto, esatto. Purtroppo nessuno, diciamo, può scagliare la prima pietra. Esatto, ecco. Esatto. Scusa. Ma serve ancora avere in Parlamento Ghedini e Longo? Ci sentiamo domani, va, 18:30. La Zanzara.